È un problema perché la quantità immane di queste ricchezze si trasforma in potere, potere di cambiare le regole a loro favore e con danno per tutti gli altri, perché una seconda specialità di questi grandi imprenditori è di essere degli elusori fiscali, che è una maniera gentile ma non meno oscena di dire non pagare tasse o pagarne in quantità veramente scandalosamente modiche, e questo è un problema. L'altro problema, diciamo così, è che sono singoli individui che hanno ormai appunto un potere simile a quello e una ricchezza simili a quelle di alcune nazioni, e nella teoria, diciamo così, liberale e classica, senza andare troppo lontano, senza scomodare ideologie anche più forti, si è sempre saputo che grande potere deve corrispondere a un contrappeso. E allora, quando Elon Musk, rispondendo in totale autonomia a un appello di un ministro ucraino, decide di mandargli i suoi satelliti Starlink, come dire, senza passare dal Dipartimento di Stato o dal Congresso americano, questa volta ci è andato bene perché l'ha dato agli aggrediti, ma come dire, come metodo è comunque abbastanza sorprendente che un privato decida in totale autonomia di dare delle infrastrutture strategiche a un altro. Se per ipotesi, per fare un po' di fantascienza, in un prossimo conflitto che potrebbe riguardare, che ne so, la Cina, che è un grande mercato per Elon Musk, lui decide di testa sua di Starlink di darle ai cinesi attaccati, magari ci starebbe meno bene. Diciamo, sono solo, diciamo, ipotesi di fanta politica, ma è il principio che è importante, cioè gli individui non possono avere il potere di nazioni, perché altrimenti, diciamo così, le cose possono prendere delle pieghe inaspettate, non tutte negative, ma senz'altro un po' preoccupanti. Un potere che non è solo economico, cioè se pensiamo a Zuckerberg, insomma, come dire, hanno anche il potere della nostra attenzione. E questo è l'altro grande tema. Allora, se Zuckerberg fosse, diciamo, il presidente di una nazione reale che corrisponde ai suoi utenti, si tratterebbe di una nazione che ha la popolazione combinata di India e Cina, cioè circa 3 miliardi di persone, con un livello di controllo su queste persone che Pechino, che pure non scherza, se lo sogna. Cioè, nel senso che, come tutti sappiamo, mettendo insieme tutti i nostri like e eventualmente dislike, Facebook sa tutto di noi. Ci sono stati dei casi celeberrimi, alcuni scandali più famosi di altri, penso a Cambridge Analytica, in cui lo psicologo che aveva pensato, diciamo, questo schema, diciamo, per derivare la nostra personalità dai tipi di like che andava, aveva spiegato in maniera molto chiara che da un certo numero di like Facebook ci conosce meglio dei nostri amici, perché sa esattamente tutto quello che ci è piaciuto e quello che ci ha provocato delle reazioni ostili. Allora, siamo proprio sicuri che senza averlo votato noi vogliamo che Zuckerberg sia, diciamo, il presidente di questa nazione di cui più o meno attivamente, più o meno consapevolmente facciamo tutte parti? Io a tutte queste domande rispondo no. Cioè, siamo sicuri che vogliamo che Bezos, diciamo così, sia il padrone di tutti i nostri dati e quindi l'emporio unico del mondo? Forse no. E che poi, diciamo così, anche lui paghi una quantità di tasse risibile e poi si pensi di sdebitarsi dando delle grosse donazioni a favore dell'ambiente. Cioè, non funziona così. Il grande malinteso di tutte queste persone è credere che la beneficenza sia uguale alle tasse. Bene, sono due concetti diversissimi. Cioè, la beneficenza è la cosa che fai in più quando hai pagato le tasse. Altrimenti è un'idea, diciamo così, nobiliare di sé, come dire, un sovrano che gentilmente concede ogni tanto delle grandi elargizioni nei confronti del popolo. Ma appunto, questa era la nobiltà francese prima del terzo stato. Nella terza parte del suo libro lei parla anche di come possiamo fare per correre ai ripari. La domanda è appunto: quali sono le principali misure che si possono mettere in campo e soprattutto funzionano, visto che gli stati hanno orientamenti diversi? Ad esempio, l'America ha favorito molto queste società. Beh, questo è il tema, infatti, principale, perché io, nonostante tutto questo, continuo a essere moderatamente ottimista sul fatto che non stiamo parlando di una calamità naturale, stiamo parlando di un complesso di cose, cioè il motivo per cui queste persone sono diventate così ricche e quindi così potenti, perché ci sono stati addirittura degli aiuti cospicui, e lo racconto nel libro, degli stati nei confronti di queste persone. Cioè, non siamo abituati a pensare a queste persone come dei campioni dell'assistenzialismo, ma nel caso di Musk è evidentemente così. Ancora nel primo trimestre del 2021, Tesla, di 533 milioni di utili, 518 arrivavano dai crediti verdi, ovvero i soldi che lo Stato, in quel caso la California, dava per incentivare la produzione di auto non inquinanti, che va bene, non c'è dubbio, va meno bene se poi lo stesso recipient, diciamo così, destinatario di questi aiuti, è quello che non paga le tasse e che poi, dopo aver intascato questi soldi, va in Texas perché lì le tasse sono ancora di meno. Allora, mettiamoci d'accordo: o siete contro lo Stato e allora vi fa schifo sempre, o altrimenti non prendete neanche gli aiuti. Ma detto questo, come si fa a risolvere? Bene, la buona notizia è che anche gli Stati Uniti stanno un po' cambiando. Cioè, prima, schematizzando, l'Europa faceva abbastanza sul serio sui diritti. Penso alla commissaria Margrethe Vestager, quella della famosa multa da 13 miliardi di euro a Apple. Adesso le cose stanno cambiando anche negli Stati Uniti, sorprendentemente con Joe Biden, che evidentemente si ricorda del mondo prima, diciamo, di internet e dell'economia digitale, e ha nominato una tipa molto tosta, che si chiama Lina Khan all'antitrust, che una che era una ricercatrice che aveva spiegato perché Amazon, pur non essendo un monopolio in senso classico, aveva degli effetti nocivi nei confronti della società. E quindi questo libro è, diciamo, viene dopo una specie di trilogia sulla economia digitale. Insomma, quando ho iniziato a scriverne, in verità ho iniziato molto molto prima, ma insomma mi sentivo abbastanza in solitudine. Adesso mi sembra che il mood generale sia un po' cambiato nei confronti della Silicon Valley, cioè la quantità di persone critiche che dicono bellissime computer che fate, però diciamo sul versante ideologico non siete quelli da cui bisogna imparare niente, soprattutto perché c'è una quantità di retorica asfissiante che viene da quella parte. Cioè questi gigacapitalisti non si contentano di fare un sacco di soldi come i vecchi capitalisti più onesti, diciamo, dal punto di vista intellettuale, no, loro vogliono convincerci che stanno rendendo il mondo un posto migliore, che è un'impostura pazzesca, perché insisto su un concetto che mi sta molto a cuore: se veramente avete a cuore, diciamo, di rendere il mondo un posto migliore, cominciate a pagare le tasse. È una cosa molto antica, molto tradizionale, però funziona ancora. Vi do una notizia strepitosa, cioè cari Elon, cari Jeff and friends, pagare le tasse tutte fino all'ultimo e soprattutto in maniera progressiva, come dovremmo fare secondo la nostra Costituzione, beh, sarebbe un cambiamento per tante persone, farebbe la differenza per milioni di persone.